ben sintonizzati, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, la frequenza è quella degli 87.9. Oggi ricomincia Tracce di Cinema dopo una lunga pausa, e come introduzione al film di oggi, Fede, ho pensato a qualcosa che non c'entra niente col film. Sei spaventato? No, sei preoccupato? No, e quando mai? Beh, no, non ti devi preoccupare, perché è una bella cosa questa cosa che ho pensato, secondo me. E c'entra davvero poco, come dicevo, ma con il film. Ma in questi giorni ho letto tanto di cinema, c'è stata da poco la mostra del cinema di Venezia, sono state mille altre rassegne, e insieme a tutte queste notizie leggere, un po' effimere, ne ho lette altre che invece ma hanno lasciato proprio il segno dentro me, difatti hanno proprio aumentato il senso di empatia verso tutto ciò che non è omologato, il senso di estraneità nei confronti degli organismi e dei sistemi di potere che sono schierati verso un ordine prestabilito e che esaltano la conformità e l'omologazione e reprimono tutto ciò che di cui hanno paura in modo ferocissimo. Ecco, per questo oggi volevo aprire la puntata ricordando chi ha perso la vita, chi si è battuto e lotta per affermare il diritto a esprimersi liberamente, liberamente anche a vivere. Ed è contro ogni, tra virgolette, ragionevole regola che afferma il divieto ad essere ciò che si vuole essere. Quindi la puntata di oggi è dedicata a chi non c'è più, in particolare a Hande Kader, 22 anni, icona, simbolo della comunità transessuale turca, che il potere conservatore turco ha vessato, torturato e ucciso pochissimi giorni fa, insieme a molti altri omosessuali in Turchia. Si parla di 1993 persone uccise perché dal 2008 perché in modo barbaro dal governo turco, perché semplicemente perché omosessuali. E poi a Hande, che non c'è più, è dedicata la puntata, e a un regista iraniano che invece c'è, e come se c'è. Si chiama Kewan Karimi, è stato condannato a 6 anni di prigione e a 223 frustate dopo aver diretto un documentario sui graffiti di Teheran, che evidentemente non è piaciuto per niente al governo. È stato da poco al Festival di Venezia, per fortuna, perché è stato liberato, e è sopravvissuto al carcere, e ha presentato alla mostra un suo film, e presentandolo, mettendo un po' da una parte proprio l'idea del film e facendosi meno pubblicità di tutto quello che avrebbe potuto fare, ha ricordato con amore e gratitudine le sue origini, che sono curde, e a proposito di queste ha detto: essere curdi è un modo di vivere ed è una sorta di resistenza. Quindi a lui, a questo regista coraggioso di 32 anni, alla giovane Hande Kader, che non c'è più, al popolo curdo, alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 24 settembre per sostenere questo popolo vessato da tutti, a tutti coloro che hanno subito e subiscono violenze, soprusi dagli organi di potere, a tutti quelli che resistono, la falange repressiva che discrimina e giudica e considera illegale la moltitudine di essere che lottano per rivendicare il loro diritto a vivere, è dedicata alla puntata di oggi, ed è dedicata anche a tutti i lavoratori che oggi sono di fronte al ministero, sono già, sì, a partire da ora, perché è stato lanciato per le ore 15 a Via Veneto, di fronte al ministero del lavoro Via Veneto, in solidarietà con il lavoratore ucciso stanotte a Piacenza. Voglio ricordare il nome: Abda El Salaman Hamed El Danf, 53 anni, 5 figli, operaio presso il magazzino GLS di Piacenza, è stato ucciso da un camion lanciato contro il picchetto che accompagnava una difficilissima trattativa in corso nella notte. A lui e a tutti i lavoratori che oggi saranno di fronte al ministero per ricordare che il lavoro non è una schiavitù e che di lavoro non si deve morire ma si deve vivere, è dedicata questa puntata, e colgo l'occasione per ricordarvi che il presidio è iniziato alle 15, si trova di fronte al Ministero del Lavoro a Via Veneto, e siete tutti invitati a partecipare perché ci riguarda un po' tutti. Quindi iniziamo con Tracce di Cinema. Che riprende dopo la pausa estiva. Sì, sì, pausona. E che pausa. Che pausa. Mi è da dire, guarda. Mi è da ridere pensando alla pausa. Vabbè, dai. Il film di oggi è uscito nel 2012, è stato diretto da un grande regista, Zemeckis, Robert Zemeckis. Non ha nessuna valenza politica, se non quella lievissima e sommessa di fare una riflessione sul fatto che un atto di responsabilità individuale ha le potenzialità per diventare un atto collettivo. Il film in questione è Flight, è stato considerato un po' come un film minore rispetto a quelli che ha girato questo regista, ma io trovo che una volta, quando sono uscita dalla sala e l'ho rivisto volentieri in TV, proprio ti lascia il segno e rimane là. Grazie a tutta una serie di trovate, la regia, la sceneggiatura ben scritta, molto asciutta, molto ben scandita di John Gatins, le interpretazioni fantastiche di Denzel Washington e Kelly Reilly, stupenda poi la scena con loro, con James Badgdale sulle scale dell'ospedale, vabbè, insomma, chi l'ha visto sa di che cosa parlo, e poi un John Goodman che vale tutto il film. Per non parlare della colonna sonora, che è stata curata, adesso mo ve lo dico, sto a palla oggi, che è stata curata da Alan Silvestri, compositore e direttore d'orchestra americano, che ha fatto, non so, piuttosto noto, sì, tipo un miliardo di colonne sonore, però di lui si sentono soltanto dei piccoli pezzetti strumentali, quindi insomma viene un po' oscurato dalla vera colonna sonora. Qui sono protagonisti Joe Cocker, Van Morrison, Jeff Beck, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones e via dicendo, insomma, quindi una colonna sonora fichissima, molto variegata in stile 60. E quindi vabbè, partiamo. Sì, direi di sì. I love you more E questa era Alcol, singolo dei Bare Naked Ladies dall'album Stunt del 1999. Questo brano parla ovviamente di alcol, perché questo film parla di una persona con una dipendenza da alcol. Bare Naked Ladies è un gruppo canadese composto da Jim Carrigan, Kevin Hearn, Ed Robertson, Tyler Stewart e Stephen Page, chitarrista e autore dei testi dei Bare Naked Ladies, che poi ha lasciato il gruppo per una carriera solista. Il gruppo è molto celebre, hanno venduto tantissimo, almeno una quindicina di milioni di dischi fra singoli e album. Andiamo avanti con la musica. Yeah. Jeff Beck Group, la sfumiamo perché sono quasi 7 minuti di questa Going Down. Otti, sono d'accordo che è la parte centrale di dell'album che si chiama proprio Jeff Beck Group, pubblicato nel 1972, è detto anche The Orange Album perché c'è un'arancia nella parte alta della copertina del disco. Geoffrey Arnold, Jeff Beck, è uno dei chitarristi che ha scritto questo pezzo, che ha cantato questo pezzo, è uno dei chitarristi rock più influenti degli anni 60 e 70. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al 5° posto dei chitarristi più bravi di tutti i tempi. Sei curioso di sapere chi sono gli altri 4? Dai, visto che ci siamo. Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page e Keith Richards. E poi c'è lui. Sì. Non lo sapevo, vedi. E a 10 anni ha iniziato a suonare, e mentre la carriera è iniziata nei primi anni 70 come turnista. Nel 65 fu reclutato dagli Yardbirds, che avevano appena perso Eric Clapton, e fu con Beck che divennero un gruppo celebre. Jeff Beck poi si è sciolto, insomma, da questo gruppo e ha creato un altro gruppo, appunto il Jeff Beck Group, in cui includeva Rod Stewart alla voce, Ron Wood al basso, Nicky Hopkins al pianoforte, Mick Waller alla batteria. Incise 2 album in tutto, Truth e Beck Ola. Dal 1975 Jeff Beck iniziò la sua carriera solista. Anyone is ever played a part. I Cowboy Junkies che rifanno Sweet Jane dei Velvet Underground, l'originale è del 1970. Otti, che ci dici? È un gruppo canadese, la voce bellissima che avete, formato da tre fratelli, la voce bellissima che avete ascoltato è quella di Margot Timmins, e il loro album più conosciuto è The Trinity Session, registrato, pensate, in un solo giorno con un solo microfono in una chiesa a Toronto, e la cover di questo brano è contenuta proprio in questa su una versione più antica e più lenta rispetto a quella conosciuta di Lou Reed, che ha dichiarato di ritenerla la miglior cover in assoluto mai realizzata del brano, basata proprio appunto sulla sua versione dal vivo. E per quanto riguarda invece Lou Reed, narra la leggenda che una volta durante un concerto fece il celebre attacco di Sweet Jane per poi interromperlo all'improvviso dicendo: questo è per farvi vedere che si può costruire una carriera su tre accordi. E c'aveva ragione. Diciamo. Allora, Fede, ci sei? Noi ti sentiamo molto bene invece. Allora, se mi sentite molto bene, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera. Allora, sei arrivato sulle note finali dei Cowboy Junkies che rifanno Sweet Jane dei Velvet Underground. Stiamo curando la colonna sonora molto interessante del film Flight di Robert Zemeckis, un film che, ci dicevi, ti è piaciuto molto. Beh, un film molto interessante che ci riconsegna un Robert Zemeckis all'altezza della sua fama. Ricordiamoci, parliamo del 2012, ormai di 4 anni fa. Storia che ne è messa in scena qua da vicino sembra preconizzare quella vera appena portata sul vero, il film che ripercorre il cosiddetto miracolo sull'Hudson, un ammaraggio d'emergenza che portò in salvo tutti 150 erotti passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Anche in quel caso lì le analogie in questo ci sono, nonostante quell'atto di eroismo il pilota, storia vera però, venne sotto inchiesta dall'ente per la protezione, per il controllo dell'aviazione. Fede, ogni tanto vai e vieni. Questo lo diciamo, però, che sei in treno, quindi la linea ci abbiamo provato, insomma ci stiamo provando, vediamo un po' quello che ne viene fuori. Mentre cerchiamo di recuperare il nostro ospite, vi racconto un po', diciamo, la parte, il fulcro di questo film, che è la scena iniziale, che pensate dura mezz'ora ed è sulla spaventoso incidente che sta per succedere a questo aereo e al pilota che lo manovra. Ecco, le riprese sono durate soltanto 48 giorni e per aiutare gli attori e i realizzatori a creare le scene sono state usate delle consulenze tecniche specifiche, tantissime, non ve le elenco, ma sono veramente tante, da simulatori, da lezioni di simulazione di volo, corsi per assistente di hostess, cose incredibili. E la scena dell'incidente all'inizio del film è spettacolare, è mozzafiato e vale tutto, va da sola, vale la visione del film. Per essere realizzata ha richiesto l'apporto di una serie di tecnici che hanno dovuto lavorare tra di loro, squadre di effetti speciali e visivi, quella degli stunt, e ha un lavoro molto creativo delle telecamere, con le quali ha usato varie tecnologie. Per gran parte di questa sequenza l'aereo è stato situato su un materasso, pensate, che simulava il movimento oscillatorio e le scosse della turbolenza, e la parte invece di volo in cui c'è il comandante Whitaker che manovra l'aereo e che dovrà ribaltare per evitare lo schianto, per essere girata è stato utilizzato un marchingegno, una cosa che si chiama rotisserie rig, cioè una specie di quella cosa che per fare il pollo arrosto, diciamo, pensa, e è un anello in poche parole che gira, che riusciva a far girare lo spiedo, sì, lo spiedo, che riusciva a far girare, a circolare e ruotare la cabina ai 360 gradi, e in tutto questo ruotavano anche i passeggeri, che non erano attori normali ma erano degli stunt, perché non si poteva girare con degli attori normali, ci dovevano essere delle persone abituate a fare delle cose incredibili, perché si trattava di stare per settimane a testa in giù per almeno 10 ore al giorno, 8 ore al giorno, ecco. No, non di seguito naturalmente, però già solo stare a testa in giù 2 minuti, 3 minuti, provateci un po', non è proprio una cosa piacevole. E quindi anche i passeggeri, insomma, erano degli stunt, quindi sono stati completamente capovolti molte volte per una derata di 2 minuti per Chuck, 2-3 minuti per Chuck. E questa sequenza, diciamo che è un po' rimasta nella storia della cinematografia, perché una delle, tecnicamente è stata una delle sequenze girate più difficili, più complicate. Sì, sì. Left you on my own, so let's see. Joe Cocker con Feeling All Right, sempre dalla colonna sonora del film Flight, e dovremmo avere Federico Pontigia in linea. Condizionale dopo, allora fino a quanto mi sono sentito, dimmi tu. Allora sì, ricordiamolo anche che sei in treno, quindi la linea purtroppo ha avuto dei problemi. Facciamo così, che ripartiamo da zero, io poi in fase di editing toglierò tutto quello che c'è stato finora rispetto alle nostre, ai nostri tentativi di chiamata, per cui è come se ci sentissimo ora per la prima volta. Federico, dicevo appunto che questo film a te è piaciuto, dici un po'. È un film che mi è piaciuto molto, è un film di, ricordiamo, di 4 anni fa, che nella sua storia, no, in questa... mannaggia, cioè, se n'è andato di nuovo Federico, che tra l'altro poi ci tengo moltissimo. Eccolo. Sembra preconizzare un altro film appena uscito, è stato presentato a Telluride appena uscito nel sale americano, da noi credo arriverà a metà dicembre. Stalli, quel caso lì, la storia vera, un ammaraggio ovviamente d'emergenza che salvò 150 persone, equipaggio e passeggeri. In questo caso Zemeckis e Washington, vale la pena ricordarlo, sono entrambi tagliati la paga, lo stipendio, proprio per portare questo Flight sul grande schermo. Paradossale, purtroppo sembra che questi soldi risparmiati siano finiti proprio nella colonna sonora, perché la colonna sonora, per i nomi coinvolti, di quelle che costano e nemmeno costano. C'è Rolling Stones, uno dei Beatles, c'è What's Going On di Marvin Gaye, c'è Joe Cocker che abbiamo appena sentito, c'è Under the Bridge, forse uno dei pezzi più famosi, una dipendenza da eroina. Ancora c'è sempre in colonna sonora Bill Withers con Inno Sunshine, e soprattutto c'è la sensazione, c'è Joe Cocker che si ripete con Feeling All Right, Sympathy for the Devil dei Rolling Stone, Gimme Shelter dei Rolling Stone. Su Gimme Shelter c'è un aneddoto curioso. Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo stavolta. Un aneddoto curioso che è questo, che quando Scorsese ha fatto il concert movie, più che documenta, sì, Shine a Light sui Rolling Stone, Mick Jagger lo prese per le licenze. No. Siamo rimasti così aspettando l'aneddoto, speriamo che ritorna, va bene, e noi si continua, noi si continua, sì. Dopo Joe Cocker, su Joe Cocker cosa vogliamo dire? Ah beh sì, su questo brano cantato da Joe Cocker possiamo, vi dico che non è un suo brano, è una cover che lui fa di una canzone dei Traffic, sì, che è stata scritta da Dave Mason, fa parte del loro album eponimo del 68, proprio Traffic, e quando uscì ebbe un grandissimo successo, fu coverizzato da moltissimi artisti, oltre che da Joe Cocker, Mongo Santamaria, Funk Railroad, Isaac Hayes, di cui sentiremo di nuovo parlare, perché è il Duca in 1997, Fuga da New York, mi sono ricordato. Isaac Hayes poi l'abbiamo incontrato anche in altre colonne sonore, sì, quindi, un grande, cioè. E però la versione di Joe Cocker è la più celebre in assoluto, è stata inserita anche in varie colonne sonore, e insomma è davvero molto bella, non stanca, ecco, anche se l'abbiamo sentita centinaia di volte probabilmente. Oh, qui ci dice Marvin Gaye. Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today, yeah. Father, father, we don't need to Questa era What's Going On di Marvin Gaye, Mother, Mother, Mother, Everybody Thinks We Are Wrong, But Who Are They to Judge Us? Viene proprio da chiedersi. E questo brano, prodotto nel 1971 dalla mitica etichetta Motown, ha avuto un grande successo, ovviamente. Questa etichetta famosissima, un po' commerciale all'epoca, perché si rivolgeva, faceva un soul più fruibile, un po' più commerciale, diretto ai bianchi, che insomma non ci capivano tanto, e quindi insomma facevano una musica un po' così, un po' più leggera. Era un'etichetta comunque di grande pregio, e Marvin Gaye è rimasto legato ad essa per gran parte della sua carriera, durante la quale ha firmato un repertorio di brani piuttosto sentimentali e ha inciso spesso accanto a voci femminili, quasi tutte della Motown. Durante tutto questo periodo di produzione con questa etichetta comunque, anche se i brani erano così appunto sentimentali, viene considerato anche artisticamente molto valido, ma lui, nonostante il grande successo, come uomo è profondamente turbato e emotivamente molto fragile, probabilmente anche a causa della dipendenza da droghe che aveva, che esplode in un distacco da questa etichetta nel 1970, quando Marvin Gaye autoproduce e si autofinanzia appunto What's Going On, e il successo è planetario e immediato. L'album è il primo vero album soul caratterizzato da brani che affrontano temi sociali che per quell'epoca erano una cosa diversa, che non veniva fatta dai cantanti di colore. Si parlava di ecologia, di gioventù, neghetti, di Vietnam, e con questo album Marvin Gaye è tra i primi neri appunto ad avvicinarsi a temi di protesta politica. che erano in effetti prima più amati dai bianchi. Questo pezzo, che è un po' gospel, un po' soul, ebbe un grande successo in quel periodo, perché era proprio, divenne un archetipo, anche per la sua modernità, era quasi avanguardistico per quei tempi. Allora, abbiamo poco meno di 10 minuti, abbiamo visto che abbiamo tante tracce, allora dobbiamo scegliere Bill Withers, Rolling Stones, due dei Rolling Stones, i Red Hot Chili Peppers, John Lee Hooker con Van Morrison, i Beatles o i Traffic. Ma io direi di continuare diamo una botta di modernità e mettiamo i Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, e ne parlavamo poco fa, nel sì, senso sì, brano bellissimo contenuto nell'album Blood Sugar Sex Magik del 91, viene suonato nella scena in cui la protagonista femminile Nicole si fa di eroina, e è un brano autobiografico. Anthony Kiedis ha scritto tutto il testo proprio pensando a se stesso, visto che anche lui è stato così preso nei vortici dell'eroina, e racconta nella sua bellissima biografia, che vi consiglio di leggere, che parla di in cui parla di se stesso, ma parla fondamentalmente del gruppo dei Red Hot Chili Peppers, che si chiama Scar Tissue, che è uscita nel 2006, che mi sono proprio andata a rivedere, e racconta proprio di come, della genesi di questo pezzo. Si trovava per strada, stava guidando la macchina verso casa dopo aver suonato alle prove, e tutta una serie di pensieri sono arrivati nella sua testa. Ha ripensato alla sua ragazza che, di cui non si era curato mentre stavano insieme, perché era soltanto interessato a farsi di speedball appunto sotto un ponte di Los Angeles, di cui non dice dove sta, ma dice che sta nel centro della città. Era turbato anche dal fatto di sentirsi molto solo e di sentire la città di Los Angeles molto vicina a lui, come se fosse uno spirito che lo seguiva e che comunque vegliava su di lui. E quindi quando tornato a casa, racconta proprio, cominciò a mettere insieme le parole per una poesia e cantarle in una melodia mentre percorrevo la superstrada. Giunto a casa, presi il mio taccuino e scrissi tutto. Alcuni giorni dopo, alle prove, cantai il pezzo e John Frusciante, chitarrista, e Flea, il bassista del gruppo, si alzarono, si diressero verso i loro strumenti senza dire niente e iniziano a cercare il ritmo e gli accordi per abbinarlo con la chitarra. E così Frusciante dice anche: quando ho sentito questo brano, era così triste, il mio cervello la interpretò come una canzone davvero triste, tanto che pensai che se il testo era così triste dovevo per forza descrivere degli accordi più felici. È proprio così che è nata una delle canzoni simbolo di questo gruppo, che è stata anche un po' una qualcosa che ha rotto poi l'armonia all'interno della band, perché questo brano diede grandissimo successo ai Red Hot, ma fu anche la causa dell'uscita del chitarrista John Frusciante, perché preferiva che il gruppo mantenesse una mentalità underground e fosse il meno mainstream possibile. Il video musicale è stato girato da un grandissimo Gus Van Sant, e siamo in chiusura. Volevo soltanto dirvi che questo genio di Robert Zemeckis, che è proprio un genio, ha girato per più di 10 anni film con una tecnica, io non ne avevo mai sentito parlare, però probabilmente sono un ignorante, voi lo saprete sicuramente di che cosa sto parlando, che si chiama performance capture. Mi ha molto colpito, sono andata a rivedermi delle cose su internet, e ha girato per esempio un film, Polar Express, poi La leggenda di Beowulf, A Christmas Carol, con questa tecnica con la quale si possono rielaborare digitalmente con dei sensori elettronici sul corpo dell'attore e le azioni che vengono poi catturate da un computer insieme alle espressioni dell'attore che si sta riprendendo, e l'immagine poi viene digitalizzata e plasmata a piacimento, arrivando ad un effetto molto realistico nonostante sia posticcio. Per esempio, in Polar Express Tom Hanks ricopre vari ruoli, compreso quello del protagonista bambino, cambiando sempre aspetto grazie alla digitalizzazione e mantenendo però le sue movenze, le caratteristiche delle sue interpretazioni. Io l'ho trovato molto interessante, e questo Flight, al contrario di tutti i film precedenti, è l'unico film live action di Zemeckis, ecco. E quindi ha fatto un grande passo avanti e anche passo indietro rispetto alle sue idee di tecnologia di cinema folli. E siamo in chiusura, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, e chiudiamo con Ain't No Sunshine. Diciamo qualcosa al volo su questo brano, se no ci lasciamo così. No, lasciamoci così. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone.